@radiofish24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa settimana diamo spazio a una grande novità nel mondo dell'editoria. Avrete sicuramente sentito parlare di questa cosa che è stata annunciata in pompa magna. Non riguarda l'Italia, lo diciamo subito. È una novità per tutti coloro che usano i famosi tablet, che usano in particolare l'iPad, ed è un nuovo giornale che non esiste in versione cartacea, che non esiste in versione normale sul web, ma proprio solo per questo supporto. Se l'ha inventato quel geniaccio dell'informazione che è Rupert Murdoch, si chiama il Daily, ma sentiamo come è stato presentato. Good morning everyone, I'm John Miller, I'm joined by Jesse Angelo, editor of the Daily, Greg Clayman, the publisher. 6 months ago, when Rupert challenged us to find a new way to marry journalistic expertise that runs deep in News Corp with all the technology offers, we knew that we had both a tremendous opportunity and a whole lot to figure out. So we've taken a fresh look at what it means to tell a story. And we thought, how do you create a new news brand that is truly distinctive? Certainly the voice matters. You have to have a wonderful and distinct editorial voice. But we also thought a true new look, a new look, a visual style that was tremendously impactful would be key to everything that we did. So we think we've developed that, and we're going to show you that today. Jesse will now reveal the Daily. Ecco qua, questa è proprio la presentazione, una presentazione, ladies and gentlemen, ecco cosa succede. Good morning everyone, quindi buongiorno a tutti, avrebbe potuto dire anche good morning everybody. E prima di tutto il nome, no? Daily vuol dire proprio quotidiano, perché newspaper vuol dire giornale, tant'è che può esserci anche per esempio un weekly newspaper, cioè un giornale settimanale, quindi noi potremmo dire un settimanale. E è nato tutto dal fatto che Rupert, naturalmente Rupert Murdoch, challenged us, cioè ci ha sfidati nel senso positivo, naturalmente ci ha lanciato questo guanto di sfida, he challenged us, e noi ci siamo resi conto che we had a whole lot to figure out, avevamo tantissimo to figure out, non c'entra niente con figurare o figurarsi, ma significa di un sacco di cose a cui trovare una soluzione, un sacco di problemi da risolvere, un sacco di idee da farci venire. To figure out vuol dire questo, cioè proprio prendere, guardare a una situazione e trovare delle soluzioni. E la prima cosa, dicono, bisognava trovare, qui c'è un piccolo gioco di parole, a new news brand, quindi un nuovo marchio di notizie, perché news, sapete che appunto al plurale non è nuovi, ma vuol dire notizie. E quello che fa John Miller è proprio anticipare che sarà tutto nuovo, ci sono un sacco di novità che saranno il marchio distintivo di questa nuova realtà. Anche perché insomma sappiamo, chi ha maneggiato l'iPad sa che questo impatto, appunto questo impatto visivo che è fortissimo, perché c'è questa visione chiarissima, con questi una definizione altissima, ecco, e quindi lui dice appunto visual style, cioè questo doveva esserci prima di tutto, uno stile visivo, e poi doveva essere tremendously impactful, doveva avere un impatto tremendo, e questo doveva essere key to everything that we did, to be key to something. Noi diciamo in italiano essere la chiave di, invece in inglese si dice la chiave A, quindi essere la chiave, qui sono quelle piccole famose differenze che fanno capire all'interlocutore se maneggiate l'inglese o lo masticate, quindi to be key to something è essere la chiave di qualche cosa. E poi John Miller passa la palla a Jesse Angelo, editor, che non vuol dire editore, un altro di quegli amici molto falsi che ci troviamo ogni volta. Due falsi amici, tra l'altro, perché editor in questo caso è il direttore, e tra l'altro all'inizio ha anche detto the publisher, attenzione perché spesso publisher vuol dire editore, ma nel caso di un giornale, quando guardate il colophon di un giornale o di una qualsiasi pubblicazione inglese, publisher in realtà è una sorta di produttore, cioè che è colui che cura l'intera pubblicazione, ma non è l'editore nel senso nostro del termine, cioè colui che possiede che ha la proprietà di quel particolare daily o newspaper o whatever. Anche perché in questo caso sarebbe Rupert. Sarebbe Rupert. Sarebbe Rupert che ci mette i soldi. Allora sentiamo come Jesse Angelo ha cominciato a svelare The Daily. Ladies and gentlemen, The Daily. First of all, thank you all so much for coming out in this miserable weather. We appreciate it. We're very, very excited about today. We're very excited to launch. We've been doing live production for about 6 weeks now, and there's nothing worse than a room full of journalists and designers creating great stories, creating great content, and only a few hundred people seeing it. But I'm kidding. The staff of The Daily has been fantastic. They have been working around the clock to get this done, and they've been producing some fantastic stuff. And we're really excited to share it with you today. devono sempre fare qualche battuta in queste presentazioni, come se fossero degli stand-up comedians, come se fossero di quei comici americani da soli sul palco che devono interagire col pubblico. Anche qui un po' di scenetta la fanno. Sì, perché poi deve ringraziare, perché c'è, insomma, grazie di essere venuti in this miserable weather, come se il tempo tremendo, perché miserable è letteralmente tremendo, fosse una strana cosa. To feel miserable si può anche usare per quando si descrive uno stato d'animo, vuol dire appunto mi sento giù di morale. Fisicamente era da qualche settimana che stavano mettendo a punto The Daily. E qui usa la forma verbale più complessa che possiamo usare nell'inglese parlato, che è we have been doing live production for about 6 weeks now. Quindi questo to have been doing ci dà l'idea proprio che hanno fatto questo continuativamente, senza mai fermarsi, for about 6 weeks. Sappiamo che se avesse detto, non so, dal 21 gennaio, avrebbe dovuto dire since the 21st of January, invece vuole anche dare quest'idea che sono state 6 settimane, quindi for about 6 weeks. E poi la rimette sul ridere, però dice una cosa vera: noi ci abbiamo lavorato chiusi in una stanza. È tremendo poi portare tutto questo al giudizio di coloro che stanno fuori, perché lavorandoci tanto noi ormai forse abbiamo perso la misura di quella che può essere la reazione altrui. E poi hanno fatto tanti numeri zero, no? Li chiamiamo così in editoria, cioè una cosa che tu fai come se dovesse uscire ma poi non esce. Quindi lui aveva questa, ci descrive questa room full of journalists and designers, e questo naturalmente è un punto importantissimo, cioè non è semplicemente una redazione con tutti i giornalisti come qui da noi al Sole 24 Ore, lì erano fianco a fianco con i designers, perché come spiegherà anche dopo, o come ha già, in realtà ci ha già detto, è anche la forma che è importantissima di questo. E naturalmente non, i giornalisti o scrivono le storie oppure fanno un altro mestiere, appunto ci sono i designers che invece disegnano l'aspetto di queste notizie. Non solo ci hanno lavorato per settimane, ma anche around the clock. Si sono, quindi around the clock vuol dire 24 ore su 24, diremmo noi, che appunto letteralmente intorno all'orologio, perciò tutte le ore dell'orologio, quindi 24 hours a day. Gli americani direbbero magari 24/7, che vuol dire 24 hours, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Probabilmente queste 6 settimane hanno funzionato così. Ma continuiamo ad ascoltare Jesse Angelo, perché va poi nel dettaglio di questo nuovo daily. As you can see, we led today with Egypt. It's such a remarkable story. I think everybody's been so compelled by it. Our guy Josh Hirsch is on the ground right now in Cairo. Aside from the obvious historical import, it's the kind of story that really is cater made for the daily. The pictures that are coming out of there are amazing. The video and the audio are incredible. And the versatility of the iPad allows us to choose which media is the most compelling way to tell a story. And we do that. We sit in the news conference every day and we say, what's the best way to tell this story? Sometimes it's going to be pictures and text. Sometimes it's going to be animation or touch interactive graphics. Sometimes it's video. And we've built a newsroom to do that. We have people from television backgrounds. We have people from newspapers, people from magazines, people from across the digital sphere. And they're working hand in hand with designers and developers. L'abbiamo detto, non è ancora una realtà italiana, ma secondo me tutte le realtà editoriali avranno molto a che vedere con questo tipo di concezione, che per la prima volta spiega così chiaramente il Daily. E tra l'altro, naturalmente, era in questi giorni la presentazione, qual è la news story, la storia di questi giorni per tutti noi, è l'Egitto. E quindi lui dice, we led today with Egypt. In italiano, in gergo giornalistico, si dice aprire con l'Egitto, che vuol dire che la notizia principale di una pagina, il titolo principale, magari anche della prima pagina, è per esempio l'Egitto. In inglese invece si usa to lead, quindi in questo caso abbiamo aperto, letteralmente siamo stati leader con l'Egitto, però ripeto, noi in italiano lo diciamo in un altro modo, però il senso è quello, cioè la storia di apertura è l'Egitto, perché we are so compelled. C'è qualcosa che è tipico di tutti i giornali, we've got the guy on the ground, abbiamo the guy Josh, mi pare l'abbia chiamato, questo ragazzo che si chiama Josh on the ground. L'inviato sul posto, però la particolarità è un'altra. Sì, lui dice aside from the obvious historical importance, tutti noi insomma capiamo che quello che sta succedendo in Egitto avrà probabilmente, o meglio è un momento storico a cui tutti dovremmo sentirci fortunati di assistere, però a parte quello, ci dice. Sì, perché dice, ok, questo vabbè, lo diamo per scontato. E lo capiscono anche gli altri giornali. Ma It's the Story dice, it's cater made for the daily. Allora, è come se fosse stata preparata, to cater, sapete che è il famoso catering, cioè preparare il cibo per una cena, per uno sposalizio, per... Quindi it's cater made, è come se fosse fatta su misura, cucinata su misura per il daily, perché ha tutti gli ingredienti per essere, secondo lui, veicolata attraverso questo strumento per iPad. Quindi il guy Josh, questo ragazzo Josh, non starà lì solo a scrivere dei pezzi scritti, deve mandare delle cose molto particolari dall'Egitto. Ecco, io non so se invidiarlo, nel senso che appunto questo contenuto, che poi loro deve essere di tutto, cioè loro vogliono immagini, suoni, parole, pictures so amazing, queste immagini stupende, questi suoni arrivano dal povero Josh che è lì on the ground. Bravissimo Josh, ma c'è anche la newsroom che collabora proprio per la costruzione delle notizie, insomma, al di là dell'ovvio inviato. Quindi questa è naturalmente la cosa, adesso al di là degli scherzi, sicuramente lavoreremo sempre tutti di più, saremo appunto multimediali. We have built a newsroom to do that, cioè per accogliere questi contenuti e capire come renderli meglio. E quindi dice, ci sono persone per esempio con un television background, magari c'è anche persone con un radio background, noi ci possiamo proporre. Proporre, perché a volte ci vogliono delle cose televisive, delle immagini, a volte invece magari ci vogliono delle animazioni, bisogna fare delle cose in animazione e le faranno. Quindi sometimes it's animation, sometimes it's visual graphics, e quindi tutte queste persone, designers, developers, cioè gli sviluppatori letteralmente, quindi persone che magari si mettono lì anche a rendere graficamente, ci sono persone specializzate in questo, io ho comprato l'altro giorno un libro proprio su questo, Information Graphics, e insomma queste nuove professionalità che rendono poi tutto al servizio del lettore, queste stupende compelling stories, e poi però usano tanti modi per farci sentire parte di queste storie. Ho un po' l'impressione che questo sia il futuro, non lo so se sarà esattamente così, ma certo questo è un grosso passo avanti. Non è ancora in Italia, è il Daily di Rupert Murdoch, però era divertente sentire questa descrizione di questa nuova realtà appena approdata nella digital sphere, nella sfera digitale. Scherzi a parte, il nostro tempo radiofonico è finito qui anche per questa puntata di English 24. Vi ricordo comunque l'appuntamento in edicola con il nostro giornale. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24.